sappiamo. Stavo controllando il tasso d'acqua che c'è nell'antenna. Buonasera. Ah, già vero che la devi imbottigliare. E allora adesso la imbottiglio e me la vendo. E beh, com'è andata la tempesta ieri notte? Sentita? No, ero addormentato di brutto. Però stamattina c'avevo l'antenna con molte stazioni, adesso ne ho poche da. Guarda, è riuscita, tu figurati che è riuscita a piegarmi questa cosa, una staffa nuova, quindi non posso dire che fosse corrosa, nuova, messa due mesi fa, di quelle tutte zincate, cromate, grossa, oltre 2 mm, quindi non la piegavo neanche a ruccio. Beh, lo sai che ci è riuscita a piegarmela. Per un pelo non l'ha spezzata, roba da matti, reggeva il tubo dell'antenna, di un'antenna secondaria, per V1, non era neanche alta, una X300, una forza questa cosa, micidiale, una mezza tromba d'aria. E te credo si è piegato una staffa del genere, non lo so io. Pazzesco, veramente. Bobo. Oi, Natalino. Vabbè. Io sono un attimino in stand-by, che devo inviare un'email. Faccia pure, siamo qui. Rieccoci, Natali. Finito. Siamo. Anche questa è fatta. Diceva il lupo all'agnello. Adesso devo cercare il numero del cupo, torna. Devo fare due visite. Una al cuore a vedere se sta andando. Se sta andando bene. E l'altra agli uffici. Torna. Ah, ma te le fanno? Sì, perché per il cuore penso che te la diano nel 2027-28, per la vista nel 2040-45. Me le ha ordinate la diabetologa, una volta all'anno fanno, quando me le vogliono fare me le facciano, io le prenoto, una mi è durata 6 mesi e poi me l'hanno annullata pure. Infatti la gente ancora non si accorge che siamo senza sanità. Ancora non se ne sono accorti, siamo in tempi, cioè da noi oramai non ci sono neanche più tempi, perché proprio non te le fanno. Infatti, cosa ti volevo dire? Per la visita cardiologica provo dove andavo prima, che è convenzionato quello. Dove vai, in veterinaria? No, lo sono in veterinaria perché è un animale sono. No, perché dire male te la fanno, sono anche più bravi. Io allora vado dal veterinario. Se sono più bravi. Beh sì, sono tutti giovani, tutte signorine. Poi ti dicono c'è paura, ti carezza, no? Quindi tu stai tranquilla. Allora, 15:33, giustamente. Ma cosa c'hai, fibra tu, Natali? Sì, c'ho la fibra. Capito, qualcuno, E funziona? Cioè, non si interrompe, no? No, funziona bene, perché l'altro giorno è venuto per scaricare roba questo amico mio e stava funzionando bene. Mi sentite, sì, qualcuno? Chi è questo qua basso, che si sente lontano, tutto bagnato. Non sono bagnato, io c'avevo l'ombrello, bagnato sei tu. Non ti sento, troppo querebbe, tu lo lo senti la tarifa? No, non lo sento, no. Perché c'è il cuocuomane? E tu sei Caldarella. E il Vella? Tanto ragazzi, è un freddo fuori, ragazzi, è sciolto. Perché non sei venuto? Che ti saresti preso anche una bella grandinata stamane. Sì, io basta quella che ha preso mia figlia stamattina. Quando mi avete chiamato, mamma mia, ma grandina così non ne ho mai visto io. Che sciuga. Ma la ciaccia di grandinato o la talina nella zona tua? Ma a dirti la verità io non sono manco uscito. Quindi non lo so. Aspetta un attimo, sto scrivendo cosa? C'era Gianni, si è aspettato di nuovo la Game Master. E così ho sentito. Ma sarà stata già lesionata, io penso, non è possibile. Ma per aggiustarla cosa vuoi che ci voglia? Allora sai cosa prende? Di quei tubi di... per la corrente, mi, e sostituisce quelli. Se mette quelli non si rompe più. Ma secondo me non va bene lì. Non va bene lì da lui. Mica è un bel aperto ai clienti, fretta è troppo, capito? Va bene lì da te, da Gianfranco, da Giulio che è bassa. Ma quella c'ha 4 metri di palo. E poi aperta al maestrale, ma lo sai cosa tira lì? Non ti rammenti più cosa ha fatto la manta fra noi quando le mi attendi. Sì, ma c'è la grande forza, non si sa, per poco ci trovano alla sinara. Senta lì mica quello di ieri era forte, quello avanti ieri, quello l'altro giorno, è un bel forte. Un bel. Secondo me quella per lui non va bene lì. Non va bene, è troppo esposto al riflette, è troppo, capito? Lì ci vuole un'antenna in alluminio, non so vedere lui. Avanti Gianfra, che mi svesto, che sto rientrando adesso, sono andato a prendere mia figlia al bar. Ci sentiamo dopo ragazzi, dai, sono qua. Lo sto dicendo a Natalino, qua. Se tu vedi la mia staffa dall'antenna che c'è qua sopra, ti metti la mano in testa, altro che non ne tira. La Game Master non si è fatta niente, perché oscilla e quindi se ne frega. Mentre il palo dell'antenna dell'X 300 che è qua su, la staffa nuova è riuscita a piegarla e adesso mi tocca sfilarla di nuovo, prenderla a martellate e metterci un altro a fianco pure di quanto era forte. L'antenna non le ha fatto niente, però ha fatto talmente forza che è riuscita a piegare la staffa messa 2 mesi fa appena. Non so, comunque lì dove lui c'è un bel rifrento. Un bel. Dai, ci sentiamo dopo, riprendi con Natalino, ci sentiamo dopo Natalino. Via! Sono qua. Può darsi che non sia neanche originale con l'antenna che ha messo. Anche quello c'è. Vabbè. Siamo qua. Sono già le 6 subito. Lo so. No, che è originale, l'abbiamo piazzata assieme. C'è anche Claudio, è originale quell'antenna di Gianni. Boh, non so cosa dirti Natale. Io so che lui l'ha. Perlomeno, se quella che ho visto io era tutta legata a sta antenna, legata sulla parte che dovrebbe essere sul radiatore, è tutta legata con vari cosi di tiranti, e quindi è chiaro che quando c'è questo tipo di vento che trova una cosa che non si muove, tende a spezzarla, è come una sega elettrica questo vento. E infatti da me non è mai successo niente ai tubi in vetrosesina, io ho di antenne neomi anche abbastanza lunghe, non è mai successo niente alle antenne, ma stracciato i connettori perché il cavo purtroppo su quelle molto alte non si può neanche fissare, e quindi letteralmente distrutto la parte di giù, anche perché i connettori AN sono molto deboli, questi che stanno mettendo. Però l'antenna a spezzarsi deve raggiungere 160 km/h il vento, tutto lì, quindi non lo so. Quando c'era quel vento non si poteva uscire fuori, è nata e ti buttava a terra. Ti sto dicendo, se a me mi ha tagliato il tubo quando è successa quella tromba d'aria, mi ha tagliato il palo, mi ha tagliato, sembrava tagliato a seghetto. Quando si incazza c'è poco da fare, sarà sempre così, oramai ci dobbiamo abituare. A me la cosa che mi preoccupa è che non arrivi quella grandine che è arrivata in continente, quanto una pallina da tennis che ti faccia tutti i vetri. Quello c'è un casino, perché se sfascia i vetri della macchina devi avere l'assicurazione proprio che ho specifica per eventi atmosferici. Quello è un bel guaio, perché si sfascia tutto quello che trova. Il continente l'ha sempre fatta così, me lo diceva mia cognata, lì in continente palline a tennis gli sembravano. Ma me lo diceva anni fa, figurati se è arrivata qua in Sardegna adesso così, a fare così è una cosa tremenda. Ci tocca fare il coso, l'integrazione dell'assicurazione, è un bel costo. Oi. Ma sento un minuto che cerco di mettere i documenti in macchina, sempre che non sia tutto allagato fuori. Se non mi senti vuol dire che ci sono caduto in qualche pozzanghera profonda qualche metro. Mettiti il giubbotto salvagente, tutto, anche quello antiproiettile, tutto quanto ci vuole. E portati uno di quei marini, di quelli bagnati che ti ascolto lì. Ti chiamo sul 16, eventualmente. Eia. Com'è il nominativo devo chiamare? Natalino qua. Ehi, ullala. No, in questo caso, dato che c'è di mezzo l'acqua, qua. Fai qua. Tanto mio, ho comprato quelle cime per l'antenna, ti tiro una di quelle. Mi raccomando, non ti dimenticare il moschettone. Già c'è tutto. Eccoci qua. Tutto a posto? Ti dirò, che non se ne capisce una mazza, adesso c'è il cielo stellato. Domani fa tempo bello, ma arriviamo a toccare lo zero anche di temperatura, quindi Claudio non esce di casa. Lì è critica la situazione. Quando da me faceva neve, faceva in campagna. Io stavo vicino a dove sta Marco adesso, più su di Marco. Guarda, salendo già da via Grassialedda, quando arrivavo vicino a casa di Marco, segnava 3 gradi di meno la temperatura, 3 o 4 gradi di meno nel termometro della macchina, figurati. E da me una volta sono passato, sembravo in coso, in Val d'Aosta. Ma a me è capitato qua, figurati, quando ho fatto quella grandine, forse avanti ieri, non riesco ad arrivare. La cosa strana però, Natalini, è che su Osilo proprio, io lo vedo, no? Io ce l'ho in ottica, Osilo c'è tutto il paese, però no, non c'è niente, gli altri anni vedevo il cucuzzolo bianco di Santa Vittoria, nulla. Ma cosa vuoi che si dica? Da me ne faceva un metro, quando c'era la neve era un macello. Ma sai cosa sta succedendo? Che praticamente fa la grandine, può fare anche della neve, eccetera. Però poi appena c'è il sole, che è molto caldo, si scioglie tutto immediatamente. È uno smalto termico sempre di micidiale. È quello che sfascia tutto, sfascia i muri, te li fila, i materiali vengono sottoposti a tensioni allucinanti. cioè è troppo veloce, capito? Mentre invece a queste temperature ci dovrebbe essere la neve, durare un giorno, due giorni, qua dura un paio d'ore e poi sembra che non sia successo niente, e invece ha fatto danni. Lo so che fa danni, ma la sorte. Io perché non la posso vedere la neve, mia moglie, ah, che bello la neve, c'è. La neve è brutta, altro che... Io non so proprio cosa sta succedendo. Tu non ci sei mai vissuta, gli ho detto, dove fa la neve, ma sei sottoposto a tanti disagi. Io ho visto 4x4 tornare indietro, non ce la facevano a salire. E io con la macchina normale salivo. Vedi se sentire in campagna. Di lì dipende, a me, io stavo scendendo giù, se non ci fosse stato il coso, guardare le sulla Santa Vittoria, no, e c'è la strada che va da Uso alla Santa Vittoria. Ho trovato di lì uno che si è avventurato con la macchinetta, che c'aveva il 4x4, ho dovuto frenare, perché mi stava venendo addosso, e a mia volta sono sceso giù col 4x4 e fortunatamente ha urtato appena appena il guardrail e si è girata, però una volta che perdi l'aderenza salendo sei fregato, capito? Per avere il tocco dove vuoi, ma se non va... No, io ho visto dalle 4x4 tornare indietro, che non riuscivano a salire, poverini, guarda, quando in campagna ne faceva, era un metro ne faceva. Così è nata Linus. Comunque è una bella zona, certo bisogna mettere in conto questi disagi, ma in confronto alla tranquillità, al fatto che puoi fare tutto quello che ti pare e così via, dovendo scegliere, si sceglie sempre la campagna. E quello è poco ma sicuro. Io ho percezioni familiari che non ci vado, no? Non mi piace, sai, se non mi tocca bisticciare con la gente che c'è lì, e no. Devo stare tranquillo, capito Gianfranco? Ma infatti, come dice il detto, meglio usuri che mal accompagnati. Proprio così. Non mi dire, no? C'ho la stufa accesa per non accendere la pompa che scalda troppo. Capita che quasi scarica. Cioè che cagata. Da 15 chili. Che cazzo, è durata neanche una settimana. Cioè, è una vergogna. Oltre che ce l'hanno aumentata a 37 euro questa cosa. Dove essere mezza biuta, ma te lo immagini. Ma di quelle a pelle c'è? Dice che consumano un bel. No, a pellet no, poi se ci mettono quello economico, il pellet, è poco inquinante, è poco sano. No, anche quelle vedrei come spariscono. No, è una bombola così che lo utilizzo quando non voglio accendere il condizionatore, perché il condizionatore scalda, vede la temperatura subito salire, però è anche fastidioso poi, perché quando esci fuori magari ti fulmina, perché insomma c'è uno smalto termico enorme, la stufa invece qua vicino va bene. A me mi durava, quando ce l'avevo la stufa, 15 giorni mi sembra. Ma adesso l'hanno aumentata a 37 euro, è una follia. Se vai invece, se te la fai portare, quanto costa? 50, 60, non so, per finirmi la cambiale. E infatti facciamo prima, hanno aumentato il kerosene e tutto, hanno aumentato. Ah, infatti, una rottura di scatola veramente, oramai. Adesso si scarica e se rimane scarica non la compro, non ci penso nemmeno. accendo il condizionatore e mi costa anche meno, tanto di quelli moderni in inverse, non consuma niente. Sì, infatti. Beh, si sta spegnendo, aspetta che la spengo. Abbiamo capito l'antifona, roba da matti. Bubu, ma secondo me ci stanno marciando, ma non poco. Cavolo. Ci stanno veramente marciando. Un bidone di cherosene da 30 euro che l'ho pagato, sono andato a prenderlo, 35 euro, 5 euro ho aumentato di colpo. E ti dura? Sì, già dura, ma 35 euro, di colpo, un bidone, sono 20 litri, un bidone. Uno l'ho già finito, adesso ho iniziato l'altro. Ma kerosene puzza parecchio, puzza parecchio, poi se devi aprire le finestre, tanto vale non averne. Ma la mia non è che puzzi così tanto come stai dicendo tu. Quando era nuova magari sì, ne avevo comprato un'altra piccolina per cucina, carta e poco scalda, bellissima quella lì. Ma se i prezzi sono quelli, sempre combustibile caro, infatti, da dove stavo prima abbiamo tolto le, ce l'avevamo a gasolio noi la caldaia a gasolio, no? E dopo abbiamo piazzato quella biomassa, briciolino di tutto brucia ed è collegata con i termosifoni, quelli con l'aria, belli. Ma sei libera quella casa, perché non te la affitti? Perché vuole messa a posto e non c'ho mai tempo, poi sono stato ammalato, lui. Così è più una spesa che altro. Se non te ne puoi godere, a un certo punto. Niente, dai. Anche la bombola se n'è andata. Andiamo bene, andiamo. Tra poco devi pagare e fanno prima non dartene neanche di bombola. Infatti hanno aumentato sia le bombole, tutto hanno aumentato. Ma si capisce, però vediamo se Claudio ha finito di cambiarsi. Claudio, ci sì. Quanta roba ha per Vados? Lì c'è freddo. Ancora deve essere, non ha finito. Non si è messo l'armatura, è andata a cavallo. Lì lo stesso deve fare un freddo cane, peggio di campagna, perché siamo a fianco praticamente con Claudio. In altro si fa più freddo, c'è, no? E tu figurati, campagna a campagna, una volta mi erano scappati i maiali, no? Ci sono uscito quasi a Osilo. Sono dietro a Osilo io. Ma poi li hai trovati, sì? Sì, e ne li ho fatti tornare pure. Quanti ne avevi? Ne avevo molti, sì. Tu figurati, maialetti a 50-50 sul piazzale, molti, per venderli. Quindi eri agricoltore, ma agricoltore, come si dice, allevatore. Ce ne sono parecchi di lì dietro, quando scendi, no, c'è la strada dove c'è la chiesetta, dove ci sono i ripetitori, no? C'è la strada che poi scende, io me la sono tutta fatta quella, e ci sono un pochino aziende. Ma quando c'era mio padre ce li avevamo i maiali, se ne occupava lui, se ne è occupato mio fratello, poi, capito? Di lì infatti sono tutti col fuori strada, hanno lo steel pick up. Lo so. Tu pensa, l'altezza. Nel piazzale mio ho controllato l'altezza col GPS, 426 metri sopra il livello del mare, sono più in alto di, essendo anche in una valle, sono più in alto di Marco. Perché Marco è all'inizio. Ma anche quello è relativo, molta gente dice sono in alto, io c'ho un collega che è molto molto più su di Marco, solo che è una sella, capito? Non riceve neanche il telefono, non si riesce neanche a telefonare da questo cristiano. Sono dovuto andare a piazzare un'antenna per la televisione, ho dovuto mettere un palo, l'amplificatore, perché no, non c'era verso. E dove c'è il ponte, mi lo sai, che passava, che non so se passi ancora, passava il treno che andava a Tempio, c'è quel vallone lì. È rientrato Xiaomi. Ben rientrato, già lo so già, io dal tetto vedevo tutto Sassari, il grattacielo, tutto. Lui invece no, c'era questa specie di collina vicino, pur essendo altissimo come zona, non va né a destra né a sinistra. Infatti ti ho detto, a quel punto ti conviene metterti, o ti metti un'antenna sopra per il cellulare, perché se no non fa così, non ti capita qualcosa. Tutto ville grandi anche, è proprio la zona più ambita, però lui c'ha questa specie di discesina così che è micidiale. Capito? Può anche essere un buco, ma quando il buco è lontano dalle collinette, colline varie, va anche bene. Il problema è quando c'è vicine, può essere il più alto della Sardegna, ma se sei circondato dentro un fosso sei fregato. Allora è un problema. Infatti per internet sono dovuto mettere il satellite e le costa un pacco di soldi, veramente una cavolata fatta. Ma riprendi Claudia. Più o meno come sono io, c'è il buco, quell'avvallamento di una cinquantina di metri e mi crea problemi con la vola. Infatti adesso cambierò compagnia, vediamo un po'. Per questi della Wind non si vedono, abbiamo chiesto una cella da gestire noi, ma no, non si vedono. Sì, mandiamo il tecnico a fare i controlli e non si vedono nessuno. Sì, io cambio gestore, vediamo un po' cosa vuoi dire. Eppure anche io sono a 400 metri di altezza, ma non capisco perché non la vola sia così debole in questa zona. Che poi se ci pensi bene è anche una cazzata, perché cavolo, c'hai Usilo di lì, quando mai a Usilo non ricevono? O quando scendi giù a Usilo non deve ricevere, c'è qualcosa nella valle, no, che c'è, da lì tu ce l'hai a vista, basterebbe, magari questi sono i pannelli miei, perché quei pannelli sono molto direttivi, basterebbe che ne mettessero un altro orientato verso di te e tu ricevi il telefono a fondo scala. Sono quelle cose proprio veramente allucinanti. No, Santa Vittoria, San Loretto Valle, io ci ho lavorato a Usilo e non prende lì, nel modo più assoluto, sono isolati, lì non esiste il telefono, non so come facciano, non so, forse la TIM prendeva, ricordo la TIM, ma Vodafone e tutti gli altri non prendevano accidenti, Gianfranco, lo ricordo perfettamente in quella zona, e addirittura avevo problema con la Vodafone anche a Nulvi e a Bulzi, mi pare, a Tergoscedini no, però quella zona lì è un casino, non so perché. Vabbè, è un attimo, Natalia. Cosa ti volevo dire? Se mi vendevi quell'HM13 mi serviva per qua. Io non te l'ho detto con l'HM13, però Natalia mi sembra, stavo controllando qua, lo prendo adesso proprio. Perché a me non ha fatto come al radio, praticamente è come prendi gli affa? Eh sì. Boh. Adesso sta a fare serpenta. Andiamo bene. Senti, che io accendo la pompa di calore e vado al secchio. A questo punto, dato che queste bombole non esibili. E non puoi stare al freddo, no, Gianfra? Cavolo. Non funziona, perché? Già lo credo. Che me l'avevi acceso. E un macello, Hanno aumentato tutto. Vabbè, l'hanno aumentato, però cavolo, la bombola che ti dura così poco. Non è che sta accesa mattina e sera. Quelle ore che sono qua, giusto per non accendere il condizionatore. Adesso tra un paio di minuti la temperatura, ovvero il termometro galoppare. Ahia, per carità. Ma vabbè. Guarda Natale, senti. No, l'ho aperto, ma secondo me non c'è capo sulla vente. Non c'è capo sulla vente, ci manca il cavallottino, per i collegamenti sono giusti, con il cuore c'è attaccato tutto. E anche buone condizioni, ci manca il coso del down, up c'è, il pulsantino, però funziona lo stesso. Ma è buone condizioni. Io trovo, se ti trovi una capsula te la metti, tanto sono quelle capsule normali, forse ce l'ho anche io, una di quelle rotonde, vediamo se c'ho qualcosa per rotta. Capite, te la colleghi, perché me l'avevano dato così con una radio, ma fa del rumore in verraglia, qua ce l'ho proprio, per cosa c'è dentro, secondo me non c'è la capsula. E oppure c'è, non è fissato. No, ma se non c'è, se di quelle rotonde già ce l'ho io, proprio per questo tipo di microfono. Adesso te lo controllo, così tu magari ci vediamo, eccolo. No, ma buone condizioni, c'è l'attacco, c'è tutto, il connettore a posto. Ci manca quel cavallotto per bloccare il coso. Il cavallottino, un po' se vuole, se lo trovo a qualche parte. Riprendi Gianfra un attimo, datemi 2 secondi. Ma cos'è una capsula elettrica, quelle piccoline a condensatore, che si mettono anche nei portatili, quelle? No, sono quelle grandi rotonde, quelle dell'M, questo che cos'è? Questo è un, non lo sentiamo, con questi occhiali, Icom, M, addirittura questo è l'M36, questo è buono. Icom IM36, non l'M13, Icom, della Icom, da questo doveva essere 275H il microfono, non so, tu fammi controllare Natali, così ti dico esattamente cosa c'è, che prendi. Ecco, per l'Icom, capito, che non ce l'ho quello da Palmo, la saponetta, tanto per intenderci, già fra. No, questo è originale di quella radio, tranquillo, originale. No, mi pare non mi serve, sono questo, lo controllo, fatemelo aprire, riprendi già. Sì, ho capito quello che è. Ed è... Adesso te lo dico cosa. Sempre che l'abbiamo specificato. No, non l'hanno specificato. Ma sai, scende. E il suo originale è l'HM12. Non so se sia compatibile con l'HM36, ho capito. L'HM12, il suo originale. No, sono tutti uguali, Natalia, uguale, preciso identico l'HM13. Io qua leggo HM36. Sono tutti uguali. Ho fatto l'HM12, l'HM13, l'HM36, dipende dalla radio che hai, capito? Magari per quella che hai tu si chiama HM12, per un altro ICOM è HM13, per un altro ancora è HM, capito? Allora, chi tu vuoi dire? Io ti pulsante, no, vedi che non c'è la capsula dentro, Adesso controlliamo. non è quelli qua vicini, uno grigio e uno, è una cataratta naturale, è uno grigio e uno, è uno, è uno rosso, non c'è la capsa, adesso te la procuro io, ok? Gaba. A me qua mi dice che è un elettrico, quindi, boh. Quindi basta una capsuletta di quella da condensatore, è una fesseria, la fai due saldature e sei a posto. Sì, lo so. Capito. Io sono solo quello da tavolo. Praticamente, ce l'ho prima, però anch'io, pensandoci bene, adesso guardo. È l'HM12, per questa il suo frutto. Ecco la mia vendita. Ma va bene l'HM36 anche. Ma l'originale, Natalì, non ce l'hai, no? No, lo stavo cercando a comprarmelo, se lo trovo, non ce l'ho, no. C'ho solo questo AV508. Ho capito. Ma guarda, io ne ho due di quelli da Icon sempre, però sono quelli ultimi, non mi ricordo la sigla, adesso è totalmente cambiata, 152 credo che siano. Quanto costa uno di quelli? Boh. Qua ce n'è uno, nuova sanzione, 16 euro, spedizione gratis, per i con 718, 7008, 756, 735, 751. Io c'avevo quello, nell'857 c'avevo quello con la tastiera, addirittura. Un'altra prova che... Quello costa 30 euro, l'HM133V. Poi dipende su che apparato devi mettere. 725. Qua c'è il 735, ma l'attacco, quello classico di tutti quegli apparecchi, è quello a 8 pin. Ehi, sì signor. E tanto sono tutti uguali quegli attacchi. Quindi, se c'è questo che costa 36 euro, ed è l'HM36, poi, vabbè, se a quello manca solo la capsula, una fesseria, mettacela. E infatti, io due microfoni li ho regalati a un amico, perché gli serviva una capsula, gli ho dato microfoni e tutto, due ne li ho dati. E a volte si dà la cosa, si dà la cosa, poi rimani senza come al solito. Infatti, capsule già ne ho due, di quelle piccoline da mettere nei microfoni da tavolo. Quelli lì sono amplificate. Sì, sono a condensatore quelle. Oramai utilizzano tutti quelli, anche gli HF, eccetera, perché hanno una larghezza di banda alta e poi sono facilmente amplificabili senza incorrere in tutti questi inneschi, eccetera. Guarda, anche questo ce l'ha uguale. Tutti i baracchini oramai sono tutti con quelle capsule lì, perché costano molto poco e sono molto efficienti. Sì, infatti, avevo quello piccolino dell'omologato, gli ho regalato omologato e tutto a quell'amico mio. Ti ricorda di me? Capisco. Io ho il Superstar come microfono, però è a 4 pin quello. Certo, adesso però purtroppo è dovuto e gli lascio il suo, è originale. Ha mandato le picche. E ho venduto quell'altro. Quello deve salutare assai. quello che c'ha per frequenzimetro grande, tanto non me ne faccio niente perché c'ho questo. Insomma, sei incontentabile. Prima da Cosovo, adesso da Palmo. Non sai tu come prenderlo questo microfono. Prenditi uno Bluetooth, ascolti, che ti manca. Come? A prenderti il microfono Bluetooth. Mentre invece io quello che fa per te l'ho trovato. E ti dirò che non costa neanche caro. 15 euro. Va bene per il Kenwood, per i cosi. E non devi fare niente, praticamente, bisogna solo adattarlo. Se lo metti in gola e non ci sono più disturbi, esce la sola tua voce e basta. Oh, signor. Adesso ci provo, aspetta con l'aringofono, come si sente. Natalì, come mi senti con l'aringofono? Mamma mia, che mi sei fatto? Male? Troppo corto e troppo debole. Sembra che c'è una patata in bocca e ed è basso basso di radio. È strano, basso basso, però i picchi sono molto corti, vedo. Quindi, vabbè, almeno non si sono messo sotto fondi. Già lo so. Tipo pilota da caccia. Chiama. Quando sentiamo a te ci tocca sopportare anche la De Filippi e tutte quelle lì. Decisamente. Se c'è mia moglie in casa, quella lì si accende il televisore e anche se va, si sente lo stesso. Perché tu c'hai la mania di questi super preamplificati, si sente il gatto del vicino, l'altro che sta già dormendo e sta russando. E volevo quello da Palma a vedere se uscivo più basso. No, ma tu non devi uscire più basso, tu devi uscire bene, però senza sottofondi. Quindi il microfono dovrebbe cancellare il rumore. Se te ne do uno di questi della Etera professionali, dovrebbe essere l'ideale per te, sono progettati per parlare anche dove ci sono i motori elettrici, gli escavatori, quelli lì, no? In ambiente molto rumoroso, dove ti stanno sparando, c'è la mitragliatrice, quelli dovrebbero andare bene. Dovrebbero andare bene, sì. O se vuoi essere esclusivo, il microtelefono. Proprio microtelefono. Beh, adesso comunque mi senti bene, sì, non è più il laringofono. Sì, adesso sì. Oh, 18:30, dopo come ne va la cena? Oggi che si fa, pizza? Ah, no. Senti, ma ti sei veramente fatta prendere la pizza con i reni? Io ho fettine di cavallo. Non dici? A dondolo. Quindi a posto dei coltelli usi la sega elettrica. Ma vediamo che fine ha fatto Claudio. Claudio sta saldando. No, adesso agganciamo la capsula che c'era. Però non trovo il coso, il ferma suo, sto mettendo un'altra cosa, no, questa originale, la capsula, cioè ce l'ha malvagato anche la capsula, però erano una, i fili sono uguali, c'è il rosso e il grigio attaccato, però era disaldata, capito? Ma ora tutto, devo modificare questa piattina per mantenere la capsula, se no non esce, capito? Già sto facendo, lascio qua. Sì, se sono quelle piccole a condensatore in alluminio, no? Che c'è nel buchetto sopra, ricordate che sono polarizzate, quindi occhio al collegamento. No, oggi collega nulla, no. Io te la sto fissando, poi c'è il collega Natalino che è più bravo di me. No, quello è buio. No, non c'è problema. Tanti figli sono là. Nel microfono c'è il rosso e il grigio attaccato. Il circuito stampato. Dalla capsula c'è il rosso e il grigio attaccato, quindi non non penso ci siano grosse difficoltà per Natalino, capito? No, devo dormire, sto mettendo la cimbrana, me la sto fissando, capito? Me la sto fissando perché ci manca la, non mi ha dato la piattina di fissaggio, mi ha dato il portacapsula, però se no si stacca, ora sto mettendo la cosa per fissarlo, sono qua. E ci metti un po' di gomma più ma intorno, lo stesso. Natali, ce l'ha la fiamma ossidrica per fare la soldatura? Ciao, sono una persona. Allora non c'è problema, visto. Le offri colazione, cappuccino, brioche, facciamo 5 brioche così, e 3 cappuccini. Là. Sì, posso anche offrirgli tutte cose, cosa vuoi dire? Tanto io quelle robe non le posso mangiare. Ma già ci sono anche per voi quelle cose, perché c'ha problemi. Ce le dovrebbero avere, però ma molti ho visto che ce l'hanno. C'hanno quello per i celiaci, per quella roba lì. Fricca. E ti mangi un panettone, la sale. Così mi c'è la glicemia 400. E allora mangiati un panettone di marmo, che così almeno sicuramente è un po' pesante ma non ti fa niente. No, il brudino di mamma mi manca. Ai ai ai. Ma. Siamo soli soliti oggi. Neanche Roberto è rientrato. Tutti hanno visto le stelle e si stanno guardando le stelle. Chi è che si lamenta? Ebbene, tutti vivi siete. Mi parla dal diavolo, mi spunta la coda. Ne ho 2 di code io. Anche. E di corna quante? Di corna un bel. Io ho rubato 9 code. E quando lo picchiava mia moglie. Io quando ero a mezz'ora ero a 5.25, c'era anche Marco, ho acceso 10, non c'era nessuno, forse di più di mezz'ora, infatti sono andato con Marco, poi ho detto aspetta, dopo devo entrare, siccome dovevo andare in quel Rick, sta facendo prima, tanto dovevo uscire, dovevo andare a prendere una medicina in farmacia, ho detto mica forse sono sul 10, ho detto quando rientro li attacco, li sento, infatti siete tutti qua. Dovevo andare, sugli altri canali c'è freddo. Sì, dopo stasera alle 21.05 Gianfra dura 16 minuti, cioè il passaggio di un satellite, mi ha dato le coordinate, nel senso le frequenze, il tono, e voglio vedere se con questa piccola antenna si riesce a collegare il satellite. Deve avere lo shift, bene, tutto quanto. Piuttosto, l'hai provata quella cosa? No, non ce n'è di shift, c'è solo il tono a 67, 145 e 920 down, la down, la plink a 145 e 300. Anche l'antenna avevamo costruita, l'avevamo piazzata e abbiamo... Avete parlato di noi, Gianfranco? Quella stazione spaziale. Natalia, avete parlato di due? No, Gianfranco, non ho provato perché poi sono uscito presto alle 2 oggi e sono rientrato alle 5 e mezza più o meno. Perché ti volevo seguire per essere certo che funzioni su quell'affare, perché tra poco alle 7 me ne sto andando. Ti stai allontanando, andando è preoccupante. Dai, no, se lo vogliamo fare per non disturbare qua Natalino, ci andiamo dove eravamo ieri. Cosa dici? Ma lo puoi anche... tanto siamo in 2, in 4, non è che dobbiamo fare tante cose. L'accendi un attimo, io ti dico se lo identifica, basta, rimaniamo qua, dai, se no non c'è tempo. Tu accendi la caldaia nel frattempo. Ehi, anche il 4, siamo in 4, in 3 siamo, magari è uguale. Claudio. E dove è Claudio? Non lo senti tu. Perché sta mettendo le mani sopra un microfono. Ce l'ho qua, sto chiudendo un microfono. Claudio, buonasera. Ciao, Ludo. si è svegliato ora, mi. Certo, a forza di mangiare diventa un coso, un porcetto. E la morte me ne varia tutti e due. Ah, il fatto che dietro sta crescendo anche questa coda a vite. Ah, quello di scimmia ce l'ho la coda. No, quella scimmia brutta, è più bella quella tipo sulla tappimi. Giratemi più benissimo, fatemi chiudere questo microfono, perché già non ho preso una mazza. Allora, adesso devo trovare delle vittine. Va bene, continuate, già sono qua. Allora sì, mi se vedi le vittine, oia. Allora, aspetta, ti attacco, la chiavetta non l'attacca ancora, Gianfra. Cosa c'entra la chiavetta? A me interessa che accendi la caldaia e quando è accesa poi ci colleghiamo un attimo e vediamo un po' se quell'attrezzo va bene, ma io l'ho provato qua e va bene, quindi se non va bene veramente sei tu che sei spiegato. La chiavetta, volevo dire quella cosa USB, dai, quell'accessorio. Aspetta, la riattacco direttamente e poi accendo l'apparecchio e ti do tutte le coordinate bancarie. No, non attaccarla prima, attaccala quando te lo dico io, sennò la cosa si. Ah, così, allora aspettati, dottor Team Viewer. Natalino, ma insomma, oggi cosa mangi? Ah, le bistecche e il cavallo, adesso. Così ti tratti bene. Allora, sei pronto, già tratti bene, perché sono deboluccio e mi sto ricostituendo, là. Allora dovresti mangiare un po' di fegato di gatto, di topo, che quello è nutriente. Ci abbiamo anche quello. Vediamo, io sono pronto. Aspetta che avvio anch'io. Ci provo perlomeno. Ma che tu arrospendo stai, Natali? Come? Ma che tu arrospendo stai? Non è il braccere di lì? No. E voilà, mamma Sergio, dolcetti da lei. No, non posso arrostire qui. In campagna, ragazza, c'avevo il barbecue. Tutto arrosto mi facevo quando stavo in campagna. Lo so. Soprattutto di piacere a quello, diciamo, per chi piaceva che sentivi tutti gli odori, quello che faceva il minestrone, quello che faceva la cordula, quell'altro faceva il cavolfiori, e si diceva voi sentivi tutti gli aromi e i sapori. E te credo. Cazzo, una volta, siccome sopra di me ci stava mia cognata, Robè. Ma io pensavo una cosa veloce. Anche lì in scesa, stavo facendo la carmao, questo amico mio. Dal profumo ne c'è pure lei. Amania, sei autoinvitata? No. No, Robè, che faccio? Ti faccio uno squillo per la credenziale? Allora, la credenziale, quello 4-1-3 è rimasto invariato. Se vuoi ti do il resto, ma tanto bastano solo quelle, conferme. Sì, confermo, ma preferirei averle in maniera sicura in questo caso. Assolutamente, chiamami o ti chiamo io, dimmi tu. Sto chiamando adesso. Scusate un attimo, Natalia. No, fate, già sono qui io. Fate, già siamo qua noi. Se sente poi la roba di base, no, ragazzi, guarda. Circuito, microfono, base, SBE. Il circuitino di preamplificazione è già pronto. Ma li metto bustine, contro bustine, cercando queste cagate. Per caricata. Ma guarda tu, roba da matti. Io se no non ne avevo io di roba in campagna. Tu pensi, ho regalato due microfoni a un amico nostro quando sarà la settimana scorsa, che gli serviva una capsula a lui perché gli mancava dal microfono di un apparato. Due microfoni ha giù regalato. E c'ho due capsule, una per l'MB4 e l'altra lo stesso che si può piazzare lì. Infatti ci sono. No, che ma sono originale, anche lì che non aveva fatta cosa lascia verde. Oh, qui non ci siamo soltanto, un attimino sull'uno, scusate. Sì, andate, già siamo qua noi. Ma siete Natale di Novi, un cappuccetto, cazzo, porca miseria. E adesso di Novi. Quel cappuccetto della minchia che strigge il capo nel connettore, già ci manca la vestina. Devo metterle per forza quel cappuccetto, se no mi si stacca il filo. Che miseria da fare. Aspetta, sto facendo matica al poco di roba delle parete garanti, dove ho rinviato, vedi? L'invio 2, l'invio della mondezza. Ah, c'ho due connettori autopin per input, vanno bene. Oh, tienili, tienili. Anche per i con vanno bene, per gli aereggi. È già fatto. Sì, già lo so se ti serviva, no, me lo dici se ti serve. Mi chiamerò la polizia se non rientro per le 10. C'erano solo cose belle da parte sua. Ecco qua. Toccato, fatto, questo connettore non l'abbiamo toccato, questo non l'abbiamo toccato. Allora provo io un gap a ver se funziona. E già avesse le connessioni sono uguali. No, ma poi c'è l'importante, c'è la capsula non è saldata. Capito? Allora, lo proviamo a vedere. Allora, gap questo, vediamo, ne abbiamo un altro di gap. Vediamo cosa succede. Non si carica. Ecco qua, vediamo, non è importante né nulla. Sono diverse le connessioni, dici? Sicuramente. Io in questo qui c'ho Inbud e Icom. E l'ho dovuto mettere nell'Icom, nell'attacco Icom, no? In questo da tavolo. C'ha due uscite, no? Sì. Io anch'io avevo 508, sotto c'è il tastino, e c'ha Icom che ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io quello, lo uso col VHF, lo uso io, col 599 della Linco, c'è lo stesso attacco che in VT. Cazzo, volevo provare, non ne ho radio Icom, ma porca miseria, l'attattore, che ci sia morti all'attattore, vediamo, aspetta. Ritornati. Gaba. Ebbene, Gianfra, funziona. Alla grande, quando la scarpa è per il piede giusto deve funzionare per forza. E io sono detto anch'io. Certo, proprio lo sapete tempo quel cavo balordo. E la vuoi sapere una cosa, Gianfra? È così la chiavetta che ho preso io, che utilizzavo quella tua e funzionava. Poi alla fine mi ha detto, ma non sarà il cavo tuo USB che non serve. E infatti poi avevo staccato il cavo USB mio, l'ho messo nella, in quella, cioè il tuo, ho buttato via il mio, e ci ho messo quello tuo, infatti quella chiavetta, quella nuova che è arrivata, funziona. Tu vedi, tutto dipende da queste cagate di cavi. Sarà sempre peggio perché il rame costa caro, lo stanno mischiando col ferraccio, quindi il rame è come l'oro oramai. Niente, è così. Comunque l'operazione è riuscita, tutto bene, tutto in ordine. Il paziente è in piedi. Claudio è ancora con le vittime, non ci vede, viene cauta per terra, non la ciappa più. Allora Claudio si è sfasciato il coso, il giro al rosso, e sta cercando di sistemarlo. Le corna mi servono sfasciare tutte e due. Ma non si occupa del microfono sempre. E stavo collegando, preparando, sto dando come microfono per una della Icom. Io lo stavo chiudendo che era tutto aperto. Lo stavo provando col K, invece non funziona, cioè non va né importante né nulla. Ma questo cos'è? Il 43? No, questo è il 14. Con quel microfono modificato? Sì, con l'MC50. Bella. Claudio, ma questo mese noi dobbiamo pagare o a gennaio? No, Gianfra, io pago sempre dopo l'Epifania praticamente. Che l'hanno già avviato, capito? Dopo l'Epifania io pago sempre il 7, l'8, così, di gennaio. A dicembre non pago mai, perché una volta mi hanno inculato, nel senso che mi sono dimenticato di scrivere nella causale, anno, praticamente l'anno dopo,